Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. La ricerca di farmaci e vaccini, inclusi quelli che si sta cercando di sviluppare in tutta fretta per combattere l'epidemia di Covid-19, ha oggi un alleato in più, i supercomputer. In questo momento Cresco 6, il supercomputer che si trova presso il centro dell'Enea a Portici, vicino Napoli, uno tra i 500 computer più potenti del mondo, capace di svolgere 1,4 miliardi di operazioni al secondo, è impiegato infatti proprio a questo scopo. A dirigere i lavori di ricerca è il gruppo dell'Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci del Dipartimento di Chimica Ugo Schiff, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del coronavirus SARS-CoV-2. Ed è quindi a Firenze che andiamo per parlarne. Buonasera Piero Procacci, benvenuto a Smart City. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto le chiedo di farci capire, naturalmente in termini molto divulgativi, di che cosa state andando in cerca, qual è il criterio che si cerca di adottare per identificare una molecola efficace? Beh, prima di tutto, per identificare una molecola efficace, diciamo, riguardo a questa malattia, bisogna identificare un bersaglio, un target, come si dice in gergo. E questo bersaglio è una proteina importante del virus che, tanto è vero, si chiama protease principale del coronavirus 2, che è una specie di forbice molecolare che tagliuzza altre proteine che dopo si ripiegano e rivestono un ruolo fondamentale nella replicazione del virus una volta che il virus è penetrato nella cellula. Quindi il nostro target farmacologico è una proteina specifica la cui struttura è stata recentemente risolta attraverso cristallografia di raggi X. Quindi dalla conoscenza delle proprietà strutturali noi possiamo capire che tipo di molecola sintetizzare, diciamo immaginare da un punto di vista chimico, per poter inibire la funzione di questa proteina nella replicazione del virus. Come si fa a inibirla? Bisogna, come dire, mettergli delle manette? Sì, bisogna mettergli delle manette. Questo si fa con una procedura gerarchica, cioè prima si fa uno screening dei possibili composti che potrebbero funzionare. Una volta che questo screening è stato fatto ed è stata individuata una libreria di possibili composti che potrebbero funzionare, bisogna operare una misura, come si dice, in silico della efficacia inibitoria di questi composti. E questo si fa appunto utilizzando il supercomputer di Enea. Attraverso delle tecniche di simulazioni molto complesse. Diciamo, bisogna testare, immagino, migliaia, milioni forse di possibili molecole e anche tanti parametri. Si può fare, come funziona? Anche così, però diciamo milioni, migliaia di possibili molecole, però in realtà esistono degli algoritmi software che consentono di scremare i composti che sicuramente non funzionano. Diciamo la procedura è simile alla procedura che si fa in un approccio sperimentale, cioè prima si trova il cosiddetto hit, cioè il composto che potrebbe funzionare, dopodiché lo si ottimizza. Intanto si verifica se effettivamente è un hit, perché anche nella procedura sperimentale ci sono tantissime possibilità di ottenere dei risultati cosiddetti falsi negativi o falsi positivi, quindi è una procedura gerarchica. La stessa cosa facciamo noi. L'ultimo stadio, che è quello più importante, dove si misura l'efficacia inibitoria del composto che secondo noi dovrebbe bloccare la proteina di cui parlavamo prima, si fa sul cluster Cresco 6, perché è una misura di fatto in silico della costante inibitoria del farmaco, di quello che potrebbe essere il possibile farmaco. Questo tipo di analisi, per capirsi, perché noi sappiamo per esempio che un farmaco può funzionare bene in vitro ma poi funzionare molto male quando lo si dà a un organismo, diciamo, un po' più complesso come può essere un essere umano. Ecco, riesce anche questa procedura a prendere in considerazione elementi di questo tipo? Allora, questo fa parte del processo di screening, questa cosa che lei mi ha chiesto è molto giusta, e in effetti nella selezione del composto ci sono vari criteri che il composto deve soddisfare, non solo quello di incastrarsi bene nella cosiddetta tasca di legame della proteina del virus da bloccare, ma anche non deve avere caratteristiche di tossicità, e anche questo si fa attraverso degli strumenti software che comparano con dei meccanismi che si chiamano knowledge based machine learning, dei database giganteschi di molecole per definire un profilo tossicologico della molecola che si vuole provare. È evidente che se questa molecola è troppo tossica e non la proviamo a modificarla da un punto di vista chimico senza tuttavia inibirne le caratteristiche di legame alla proteina in modo tale da renderla somministrabile, da non avere a priori un profilo tossicologico sfavorevole. Comunque, insomma, capiamo che è una procedura molto complessa nella quale bisogna tenere conto di tantissimi parametri. Ecco, come sta procedendo il vostro lavoro? Allora, noi abbiamo, diciamo, fatto uno screening di un centinaio di composti con questa procedura iniziale e ne abbiamo provati una ventina sulla macchina Crisco, di cui abbiamo misurato con sufficiente precisione la costante inibitoria, e abbiamo trovato un paio di composti promettenti, però nulla di più, diciamo. Quindi siamo in questa fase qui e pensiamo in qualche settimana di riuscire ad ottenere sperabilmente dei risultati, però è una procedura molto complessa, come diceva lei stesso. Quindi Diciamo che alla fine, appunto, magari tra qualche settimana vi trovate ad aver individuato dei buoni candidati. Che cosa succede a quel punto? a quel punto queste molecole devono essere provate in vitro, cioè devono subentrare dei chimici organici che sintetizzano queste molecole se non sono disponibili commercialmente, perché noi possiamo, tra virgolette, sintetizzare al computer qualsiasi cosa ci venga in mente. Se è una cosa che non è disponibile commercialmente, va fatta. Una volta fatto questo, bisogna verificare il profilo tossicologico in vitro, cioè su linee cellulari. Dopodiché bisogna provare il composto, una volta che i test in vitro sono superati, su modelli animali, cosiddetto, cioè in vivo. Una volta che sono stati fatti test su animali modello, si può procedere alla cosiddetta sperimentazione clinica. Tenga presente che un processo di scoperta di un farmaco impiega anni, diciamo. Ora, in una fase di emergenza tutto questo è accelerato, però in ogni caso non è una cosa immediata. Ecco. Grazie professor D'accordo. La Procacci e a ringrazio. risentirci. A risentirci. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. L'appuntamento con Smart City torna come sempre lunedì.